Verso la luce. Storia straordinaria di Helen Keller. ISHBEL Ross. C. È in Helen Keller, ora settantenne, e perfino nel suo aspetto, qualcosa che trascende il tempo e che è in armonia con la straordinaria storia della sua vita. Cieca, sorda e muta fin dalla prima infanzia. Si sollevò sulla sua triplice sventura per divenire una delle figure più note del mondo moderno. È un fulgido esempio dovunque, tanto per i ciechi quanto per chi vede. Quando, dopo la guerra, si recò in visita in Giappone, i bimbi di remoti villaggi le corsero incontro, gridando «Helen Keller!». Il suo nome raggiunto nell'impenetrabilità della giungla prima dell'epoca della radio e del cinema. Sebbene questa simpatia umana le riscaldi il cuore, Miss Keller non vuole che la considerino diversa dal resto dell'umanità. Ritiene che i ciechi debbano vivere e lavorare come tutti gli altri, senza essere notati e senza attenuazione di doveri. Nell'intima quiete delle sue tenebre accumula forza e vigore da prodigare all'umanità sofferente. Ogni decennio le porta nuova saggezza e accresce le sue facoltà già tanto acute. Coloro che le sono più vicini osservano che il suo modo di articolare le sillabe è migliorato in modo notevole dopo i 60 anni. Incide spesso dischi, e la sua voce, che rappresenta per se stessa uno dei maggiori sforzi della sua vita, è ascoltata in tutto il mondo. La sua padronanza del parlare è stata definita la più grande meta individuale raggiunta nella storia dell'insegnamento. All'età di 10 anni, Helen già leggeva avidamente col sistema Braille ed era in grado di comunicare e pidicare per mezzo dell'alfabeto manuale. Nella primavera del 1890 venne a sapere di una ragazza norvegese, cieca, sorda e muta, Ragnhild Kata, alla quale era stato insegnato a parlare. Helen ardeva dal desiderio di imparare. Subito batté sulla mano di Anne Sullivan le sillabe. «Devo parlare!» Anne Sullivan accompagnò Helen a Sarah Fuller, direttrice della scuola Horace Mann per i sordomuti, a Boston. Miss Fuller si mise subito all'opera, passando leggermente la mano di Helen sulla parte inferiore del proprio viso e mettendosi in bocca le dita di Helen per farle sentire la posizione della lingua, i denti, il movimento della mandibola e la direzione della trachea. Poi Miss Fuller pose la lingua sul fondo della bocca, proprio dietro gli incisivi inferiori, per il suono I, nella parola inglese 11. In seguito mise l'indice di Helen contro i propri denti, un altro dito sulla gola, e ripeté il suono diverse volte. Appena ebbe finito, le dita di Helen corsero alla propria bocca e alla propria gola, e dopo aver messo a posto la lingua e i denti, emise un suono tanto simile a quello emesso da me, che sembrava un eco. Poi l'esercizio continuò sulle vocali A e O, che Helen ripeté distintamente. Dopo di ciò provarono le parole mamma e papà. Miss Fuller pronunciò lievemente la parola mamma, facendo scorrere il proprio dito lungo il dorso della mano di Helen per indicare la relativa lunghezza delle due sillabe. Dopo qualche ripetizione le parole mamma e papà uscirono correttamente, quasi con dolcezza musicale, dalle labbra della fanciulla. Tornando a casa in tram dopo la settima lezione, Helen si volse a Miss Sullivan e disse con voce sorda e affannosa: «Ora non sono più muta». Questa fu la prima volta che si servì di parole vere e proprie per esprimere un pensiero, e ciò avvenne entro un mese dalla sua prima lezione. Era un parlare umano, dalle labbra di una persona che, eccettuati i primi balbetti infantili, era giunta all'età di 10 anni, emettendo soltanto gli inarticolati suoni dei muti. «Questa bambina ci dà una lezione», disse il dottor Alexander Graham Bell. Il suo scetticismo era scomparso in precedenza, grazie ad una visita che aveva fatta a Helen inaspettatamente dopo aver ricevuto da lei una lettera scritta e composta tanto bene da non poter credere che ne fosse autrice quella bambina cieca e sordomuta, ma la trovò sola in una stanza, mentre scriveva ad altri con la stessa bravura e con la stessa facilità. Divenne suo intimo amico e tale rimase sino alla morte. Helen prese 11 lezioni da Miss Fuller, ma questo fu soltanto il principio della sua lunga lotta con la parola. Per giorni, per mesi, per anni si sforzò di migliorare la pronuncia. Ripeteva parole e frasi per ore e ore, servendosi delle dita per cogliere le vibrazioni della gola di Miss Sullivan mentre parlava. I movimenti della lingua, delle labbra, l'espressione del viso. Non ha mai cessato dall'esercitare la propria voce, dal parlare in pubblico e dal condurre gran parte della conversazione con la parola diretta. La sua voce ha un tono acuto, strano ad ascoltarsi. Le frasi non hanno inflessioni, sembra parlare con sforzo. La mano destra, con le dita serrate, traccia una parabola e scende rapida sulla palma sinistra, come ad apporre un enfatico punto all'ultima frase. Allo stesso tempo, il volto si spiana in un sorriso avvincente che cancella ogni impressione dello sforzo che sembra aver compiuto. «Ho vinto solamente in parte il silenzio ostile», ella dice. «Temo che la mia voce non sia piacevole, ma ne ho rivestito le ali mozze con gli infallibili colori dei miei sogni, e la battaglia che ho combattuta per essa ha rafforzato ogni fibra del mio essere ed approfondito la mia comprensione per tutte le lotte e le ambizioni deluse». Helen Keller è diventata molto abile nei leggere le labbra e nei leggere le labbra mediante le vibrazioni. Poggiando il medio sul naso di chi parla, l'indice sulle labbra e il pollice sulla laringe, può udire quel che gli altri dicono, specialmente se hanno la voce chiara e risonante. Scopri che Franklin D. Roosevelt era per questo un soggetto ideale. Per mezzo delle vibrazioni riuscì ad afferrare le migliori battute umoristiche di Mark Twain con le dita sulle labbra del grande tenore. Enrico Caruso ne versò la voce dorata nella sua mano. Fëdor Shchaliapin cantò i barcaioli del Volga, cingendola strettamente col braccio in modo da farle sentire tutte le vibrazioni della sua voce possente. Jascha Heifetz suonò per Helen mentre ella teneva le dita leggermente posate sul violino. Ha letto i versi di Carrie Sandburg dalle sue labbra e ha ascoltato vecchie canzoni folcloristiche negre dall'orlo del suo banjo. Tenendo la mano appoggiata sul piano sente piccoli tremolii di tonalità, ritorni di melodia e l'onda irrompente che segue. Ha qualche piccola sensazione anche dal vibrare della radio. Il primo diradarsi delle nebbie che avvolgevano Helen Keller risale al 1886, quando aveva 6 anni. Nata nella cittadina di Tuscumbia, nell'Alabama, fu una bimba normale fino all'età di 19 mesi. E sembrava gioire dei fiori, degli uccelli in volo, del gioco delle luci e delle ombre. Poi fu colpita da una febbre cerebrale viscerale. Le sue condizioni erano disperate, ma la febbre cessò quasi d'improvviso come era venuta. Ben presto la madre di Helen si avvide che la bambina non chiudeva gli occhi quando le lavava la faccia. La condusse da un oculista e le fu detto che Helen era cieca. Poi la madre si avvide che la piccola non reagiva al forte squillo d'un campanello. Helen era anche sorda. Inevitabilmente, giunta all'età di 3 anni, divenne anche muta, e le poche parole che aveva balbettate a 18 mesi furono dimenticate. Helen cresceva rapidamente ed aveva un fisico robusto e ben formato, ma la sua natura dolce cedeva a collere furiose. I suoi vani tentativi di farsi capire erano seguiti da scoppi selvaggi di furore. Si gettava sull'erba e s'abbandonava a invincibili accessi di grida. Il suo contegno a tavola era pessimo. Non voleva lavarsi la faccia né abbottonarsi le scarpe. Molti anni dopo scrisse: «Mi sembrava che delle mani invisibili mi tenessero. Facevo sforzi frenetici per liberarmi». La madre, una donna mite, intimidita da tanta violenza, gliele dava tutte vinte. Helen aveva molta forza di carattere invece dell'apatia che generalmente pesa sui bambini ciechi e sordomuti. In questa forza stava il germe del suo futuro trionfo. Ma la signora Keller si sentì sull'orlo della disperazione quando le capitò in mano il volume delle American Notes di Charles Dickens e vi lesse di Laura Bridgman, una ragazza sordomuta e cieca della Nuova Inghilterra, che Samuel Gridley Howe era riuscito ad educare. Infine Helen fu condotta da Michael Ananios, succeduto al dottor Howe, nella direzione dell'istituto Perkins. Ananios raccomandò come istruttrice una ragazza irlandese appena diplomata. La ragazza si chiamava Ann Sullivan e doveva essere per 50 anni l'inseparabile compagna di Helen Keller. C'era stato qualcosa di dickensiano nell'infanzia di Ann Sullivan. Il padre Beone la picchiava. Affamata, piena di lividi, trascurata, infine era stata abbandonata all'ospizio di mendicità a carico dello Stato. Nel 1880 era entrata nell'Istituto Perkins, cieca in seguito a tracoma. Due operazioni le avevano ridato la vista, sebbene per tutta la vita continuasse a soffrire di disturbi agli occhi e divenisse completamente cieca negli ultimi anni della sua esistenza. Giunta in Alabama, Ann Sullivan fu colpita dal bel portamento di Helen Keller e dall'intelligenza che le trapelava dal viso, quantunque questo mancasse di mobilità o d'anima. Helen corse verso Miss Sullivan nel momento in cui scendeva dalla carrozza, le toccò l'abito e il viso. Respinse una carezza, cercò ad aprirle la valigia e fece una scenata sulla porta di casa quando la signora Keller volle toglierle la valigia di mano. Miss Sullivan le porse una bambola inviata dai bambini dell'Istituto Perkins. Dopo che Helen, mutando rapidamente umore, vi ebbe giocato per un poco, Miss Sullivan le batté sulla mano le lettere doll, bambola. L'attenzione della bambina fu destata da questa insolita manovra e si provò a imitare quei movimenti delle dita. Fu quello il primo consapevole sforzo per istruire Helen Keller. Quando Miss Sullivan le tolse la bambola, cominciò una lotta. La prima delle molte che seguirono. La nuova maestra allontanò Helen dai genitori disperati e la condusse in una casetta contigua. Un violento conflitto di volontà infuriò per diversi giorni. Fu una lotta fisica oltre che mentale, ma Miss Sullivan ne uscì vittoriosa, pur se dovette immobilizzare Helen con la forza, 2 ore alla volta, per domarne l'accanita resistenza. «Il suo spirito inquieto brancola nel buio», commentò la maestra. «Le sue mani non istruite, irrequiete, distruggono tutto ciò che toccano, perché non sanno fare nient'altro». Notò che la bambina aveva già diversi modi per manifestare i propri desideri. Se aveva voglia d'un gelato, girava la manovella di un'immaginaria gelatiera. Per il pane burro faceva il movimento di tagliare e di spalmare. Fingeva di mettersi gli occhiali per indicare il padre. Prese a cullare la nuova bambola, emettendo una monotona nenia fra le labbra che si sfiorava con le dita. Ma imparò anche a sillabare nuove parole con il linguaggio manuale. Spillo, cappello, tazza, sedersi, alzarsi e camminare. In capo a una 15ina di giorni, un barlume di luce le attraversò la mente. Miss Sullivan l'aveva condotta alla pompa dell'acqua e l'aveva messa in azione. Mentre l'acqua riempiva la brocca e traboccava sulla mano destra della bimba, Miss Sullivan le batté sulla sinistra. Acqua! La parola, giungendole contemporaneamente alla sensazione dell'acqua fresca che le scorreva sulla mano, sembrò sorprenderla, scrisse Miss Sullivan. Lasciò cadere la brocca e restò trasecolata. Una nuova luce le illuminò il viso. Ed ecco quell'episodio nel ricordo di Helen. Non so come, ma il mistero della lingua mi fu rivelato. Capii in quell'istante che acqua significava la cosa fresca e meravigliosa che mi scorreva sulla mano. Quella parola viva svegliò la mia anima, le diede luce, speranza, gioia, la rese libera. Helen tornò a casa in preda a eccitazione febbrile. Muovendosi toccava ogni oggetto, era chiaro che ne cercava il nome. La terra, il pergolato, i cespugli, la pompa. Sapeva ormai che tutto aveva un nome e voleva conoscerlo. Nello spazio di poche ore aggiunse altre 30 parole al suo vocabolario. Da allora in poi l'istruzione procedette con straordinaria rapidità. «L'ardore con cui assorbe nuove idee è meraviglioso», scrisse Miss Sullivan. «È una fortuna non comune assistere alla nascita, allo sviluppo e alle prime deboli lotte d'una mente umana». Miss Sullivan le insegnò a leggere con delle brevi frasi raccolte in una cornice, dopo che ogni singola parola, scritta in rilievo su cartone, era stata posta vicino al rispettivo oggetto, come ad esempio «Bambola è sul letto». «Se le sue dita si posano su parole che conosce», scrisse Miss Sullivan, «manda piccole grida di piacere». e m'abbraccia e mi bacia per la gioia. Quando le diedi la mia tavoletta Braille per farla divertire, quel demonietto si mise ben presto a scrivere lettere. Non immaginavo che sapesse cosa fosse una lettera. Dopo 3 mesi, Helen sapeva 400 parole e molte espressioni idiomatiche. Quell'estate il gioco continuò. 3 ore di fila, in casa e fuori. Studiavano all'ombra dei pioppi o dei gelsi, e tutto ciò che ronzava, cantava o fioriva, fece parte dell'educazione di Helen. Toccava la peluria delle pesche nel frutteto, schiacciava le capsule mature del cotone, afferrava un insetto in un fiore che aveva colto. Imparò a distinguere l'alloro dal caprifoglio e un maiale da una gallina. Miss Sullivan le fece delle carte geografiche in rilievo con l'argilla e con pezzi di spago e stecchini per indicare l'equatore, i meridiani e i poli. Insegnò a Helen a contare con perline infilate in gruppi e con pagliuzze disposte in modo da fare le addizioni e le sottrazioni. Era la sola materia che non piaceva a Helen. Ben presto imparò a scrivere molto bene con la matita. Entro un mese scrisse alla cugina una lettera senza errori d'ortografia e con scrittura leggibile. Oggi la scrittura di Miss Clear è quadra, artistica e sempre leggibile. Per la fine d'agosto sapeva 625 parole, ma dopo un anno di insegnamento era diventata molto pallida e magra. Tutti ritennero che si fosse affaticata troppo. Lo stesso si disse più tardi quando Helen si preparava per entrare all'università, ma la maestra ribatté. Finora nessuno ha pensato a cloroformizzarla, il che sarebbe secondo me l'unico modo per arrestare l'esercizio naturale delle sue facoltà. A quell'epoca Helen prese ad amare i vestiti eleganti ed insistette per farsi arricciare i capelli tutte le sere, anche dopo una giornata estenuante. Miss Sullivan condusse la bimba all'istituto Perkins all'età di 8 anni e tutto un nuovo mondo si aprì per Helen. Poteva leggere libri in Braille e stare insieme con altri bambini che conoscevano l'alfabeto manuale. Presto diede prova di straordinaria abilità. Miss Sullivan lasciava che sfogliasse i libri, scoprendo parole qua e là, molto prima che fosse in grado di leggerli realmente. Studiava con metodo aritmetica, geografia, zoologia, botanica e lettura. Questo non era più l'insegnamento libero e spontaneo, svolto all'aperto, ma Helen si dedicava assiduamente ad ogni aspetto dei suoi studi, rifiutando di lasciare un dovere a mezzo. Quando le dicevano di riposarsi, rispondeva: «Mi darà forza e finirlo ora». Ha conservato questa abitudine di instancabile operosità anche adesso che ha sorpassato i 70 anni. Fu questa per Helen un'epoca di grande sviluppo mentale. In viaggio la maestra le descriveva vividamente, con il linguaggio manuale, tutto ciò che incontravano al loro passaggio, le colline, i fiumi, i villaggi e le città, l'aspetto delle persone, gli abiti che queste portavano. Trascorsero l'estate al mare e Helen imparò a nuotare, ma il suo primo bagno le riservò una grande sorpresa. Nessuno aveva pensato a dirle che l'acqua del mare era salata. Imparò a remare e a governare la vela, a cavalcare e ad andare in tandem. Tilde. I circoli intellettuali di Boston si occuparono di questa straordinaria fanciulla. Il filosofo Oliver Wendell Holmes pianse quando Helen gli recitò con la sua stentata dizione una poesia di Tennyson. Il poeta John Greenleaf Whittier le disse che aveva capito ogni parola, e Helen ne fu felice. Tenne corrispondenza con uomini famosi, scrivendo loro tanto in inglese quanto in francese. Helen era ormai diventata una giovane alta e aggraziata, piena di garbo e di spirito. L'istruzione universitaria fu il passo successivo. Helen scelse Radcliffe, un'università femminile, collegata a quella di Harvard, e si preparò con il solito zelo. Si iscrisse alla Gilman School di Cambridge, un istituto per signorine dove studiò molto intensamente, avendo sempre a fianco Miss Sullivan, che attraverso la mano le trasmetteva le lezioni. Nel 1900 entrò a Radcliffe e fu la prima persona priva della vista, dell'udito e della parola a iscriversi in un istituto di studi superiori. L'università fu una delusione per Helen. Riusciva bene, ma risentiva della mancanza di tempo per meditare. Durante le lezioni non poteva prendere appunti perché le sue mani erano occupate ad ascoltare. Appena tornava a casa scriveva in fretta quel che ricordava. Si serviva di una tabella Braille per l'algebra, la geometria e la fisica, ma aveva poca disposizione per la matematica. Gli esami erano un incubo, ma alcuni corsi le piacevano e, insieme con Miss Sullivan, studiava con la solita concentrazione. Fecero venire dei libri in Braille dalla Germania e dall'Inghilterra e Helen li leggeva finché le dita le sanguinavano. Si laureò nel 1904 meritandosi una votazione con lode in inglese. Aveva 24 anni. Le arrivavano già numerose richieste per apparire in pubblico e per articoli di riviste. Fu invitata ad intervenire all'esposizione di St. Louis del 1904 per richiamare l'attenzione del mondo sull'educazione dei ciechi sordomuti. Ma nel giorno dedicato a Helen Keller non si riuscì a contenere la folla. Le ridussero il vestito a brandelli, le strapparono le rose del cappello. Si preparò a tenere delle conferenze prendendo speciali lezioni con un maestro di musica. Si studiò ancora di dare alla propria voce un tono misurato. A volte non le riusciva di dominarla, s'abbassava o s'alzava oltre ogni controllo. La pioggia, il vento, la polvere. Le emozioni influivano sul tono della sua voce, ma nel 1913 parlò in pubblico per la prima volta. Lì per lì mi si paralizzò la mente, confessò poi Helen. Pregò, le parcelle le salirono alle labbra, ma non riuscì a dire una sola sillaba. Infine emise con sforzo un suono che le sembrò una cannonata. Le fu detto più tardi che era stato soltanto un bisbiglio. Ma da quella volta in poi Miss Kellyer e la sua maestra comparvero spesso in pubblico. La maestra mostrava il metodo con cui aveva insegnato a Helen. Poi parlava l'allieva, terminando con la frase «Ora non sono più muta». Nel 1914 intrapresero un ciclo di conferenze attraverso l'America. Nel frattempo una vivace e abile ragazza scozzese, Polly Thompson, si era unita a loro come segretaria e amministratrice. Si recarono a Hollywood per girare il film Deliverance, Liberazione. Poi apparvero in un dignitoso numero di varietà e al Teatro Palace di New York Miss Keller ebbe grande successo. A Helen piaceva moltissimo. Il teatro le pareva pieno di vita, di colore, di varietà. Sentivo in viso il respiro del pubblico. Helen Keller era ormai conosciuta in tutto il mondo. I suoi libri erano tradotti in molte lingue, oltre che in Braille. Nel 1930 cominciò a viaggiare all'estero. Si recò più volte in Europa, poi in Oriente, sempre interessandosi ai ciechi, parlando per i ciechi, raccogliendo fondi per i ciechi. Chi aveva sentito parlare di lei si recava a vederla. Ormai era colta, padrona di sé e all'altezza di qualsiasi avvenimento. Le furono conferite lauree ad honorem e onorificenze in molti paesi. Ma la salute della maestra vacillava. Era quasi cieca. Non sapeva più tenersi a pari con la vigoria e con la salute di Helen. Morì nel 1936, poco dopo un'operazione agli occhi, l'ultima di una lunga serie. Quell'anno la medaglia di Roosevelt per le opere di straordinaria solidarietà e di alto significato fu conferita a queste due donne eccezionali. Oggi Miss Keller e Miss Thompson vivono in una bella casa spaziosa nei boschi del Connecticut, a circa 80 chilometri da New York. Una lanterna giapponese di pietra, alta 2,5 metri, si eleva simbolicamente in un angolo del prato, ed una luce vi arde in permanenza, arderà finché vivrà Helen Keller. Un sentiero serpeggiante conduce da giardino ai boschi e qui vi Helen predilige passeggiare e meditare da sola, salvo per la compagnia dei suoi cani, seguendo con la mano un rustico steccato. Ella trascorre lunghe ore nel suo studio, seduta a testa alta alla macchina per scrivere, compilando messaggi che le sono stati richiesti per i ciechi dell'Australia, dell'India, del Giappone, o attendendo a qualsiasi altra richiesta. Lungo le pareti ci sono i suoi libri in Braille che ella legge finché le punte delle dita che hanno percorso chilometri e chilometri di alfabeto Braille La sua Bibbia in Braille è ancora per lei la cosa più preziosa. Ne sa lunghi brani a memoria. Legge al buio o alla luce del giorno come tutti i ciechi che dormono male e che non distinguono il giorno dalla notte. Miss Thompson le legge i titoli dei giornali la mattina a colazione e lei sceglie le notizie che vuole ascoltare. Gli articoli che le interessano in modo particolare le sono talvolta trascritti in Braille. Miss Kellier sente il profumo dei boschi e dei fiori che si stendono oltre le sue finestre. Sa quando piove, quando nevica, quando brilla il sole, quando il tempo è grigio, quando spunta la prima erba, quando fioriscono le rose, quando le foglie si seccano e quando in autunno si fa arsiccia nei campi. Ha il proprio appartamento diviso dal resto della casa e LJ vive completamente indipendente. Tutto vi è tenuto in perfetto ordine. Pulisce la propria stanza da bagno, si rifà il letto, tiene le carte in ordine ed esce dalle sue stanze fresca come una rosa, spesso alle 5 del mattino. Insieme con Miss Thompson lavora in giardino all'alba, quando il tempo lo permette. Le piace tagliare l'erba, sradicare la gramigna e rastrellare le foglie morte. Si direbbe che il tempo l'abbia appena sfiorata. Ha un aspetto molto giovanile per i suoi 70 anni, il viso senza rughe e i capelli appena striati di grigio. Ha gli occhi azzurri e luminosi, non gli occhi opachi dei ciechi, ma vivi e pieni di espressione. Helen Keller è profondamente religiosa. La fede la sorregge nelle ore tranquille in cui si ritrae dalla vita, attiva per rinchiudersi nel profondo silenzio che soltanto i ciechi sordomuti conoscono. Splende attorno a lei la fiamma inestinguibile delle qualità morali, della fermezza di propositi e della lacre operosità. Anelo alla vita futura, dove sarò libera dai ceppi di tutte le limitazioni fisiche, dice Helen Keller. Dove ritroverò la mia adorata maestra e intraprenderò con gioia una missione più alta di quella cui mi sono votata quaggiù.